Perfetto Notte, le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. La maggioranza è compatta, certo che è compatta, lavoriamo tutti i giorni su vari fronti e lo vedete anche col decreto rilancio. È stato fatto un grandissimo lavoro. Abbiamo portato in Parlamento, abbiamo offerto in conversione due, forse anche tre manovre di bilancio. Io ringrazio ancora una volta tutti i parlamentari che hanno lavorato con grandissimo impegno. Come avete sentito, care ascoltatrici, cari ascoltatori, il presidente del Consiglio Conte assicura, dopo un ulteriore oggi vertice di maggioranza, che la maggioranza, appunto, i partiti di governo sono compatti, c'è una maggioranza compatta, anche se qualcuno ha parlato di gelo con Zingaretti, ma oggi Conte ha tenuto un incontro di circa un'ora con il segretario del Partito Democratico, uno dei due maggiori partiti, appunto, della maggioranza di governo. Dice: sono d'accordo con lui, bisogna passare subito alle azioni concrete per il rilancio del paese. E poi comunque c'è, diciamo, anche della maretta nel centrodestra dopo un'intervista di Berlusconi a Repubblica in cui sembrava in qualche modo suggerire che potrebbe essere disponibile Forza Italia per una maggioranza alternativa, e questa cosa è andata molto giù a Salvini e Meloni, che dicono l'unica alternativa sono le elezioni, e comunque hanno interpretato in modo diverso la proposta, l'apertura di Berlusconi. Quindi ci concentreremo naturalmente sulla politica italiana oggi, c'è anche naturalmente sul tavolo il decreto semplificazioni, che contiene ancora dei nodi che non trovano d'accordo Conte e il PD in particolare. E poi, dicevo, la notizia importante di oggi è quella dei Marò, nel senso che il Tribunale Internazionale dell'AIA, che doveva decidere se la giurisdizione, il processo, toccava all'India oppure all'Italia, ha deciso per l'Italia, però chiedendo all'Italia dei risarcimenti nei confronti dell'India, delle famiglie dei pescatori uccisi e anche dell'equipaggio della barca che era stata bersagliata. Poi ci addentreremo con un esperto di diritto internazionale in questa vicenda così intricata. Molte altre cose, non vi anticipo tutto, non perdete neanche un minuto di Effetto Notte. Per i vostri commenti, come sempre, pagina Facebook di Effetto Notte oppure 349-238-6666, che è il numero per i WhatsApp, 349-238-6666, il Twitter di Effetto Notte durante la diretta, oppure Roby con la Y, Linetta Bassa, Giordano. L'andamento del coronavirus in Italia: crescono i contagi, più 201, le vittime sono 30. E all'estero, nuovo record dei casi negli Stati Uniti, la California chiude bar e ristoranti. Le misure economiche del governo e la sua tenuta. Sul decreto semplificazioni, confronto aperto nella maggioranza. Conte nega di sì di con Zingaretti e dice che è il momento del coraggio. La vicenda dei Marò, il Tribunale per l'arbitrato internazionale dà ragione all'Italia. Immunità riconosciuta per la Torre e Girone. Il processo ai due fucilieri riprenderà nel nostro paese. L'Unione Europea annuncia doppia infrazione per l'Italia. Nel mirino i rimborsi ai passeggeri di viaggi cancellati a causa del coronavirus. Sport: mondiali di Cortina di sci si svolgeranno nel 2021. Niente rinvio al 2022, lo ha deciso la FIS. Serie A maschile in campo Atalanta-Napoli alle 21.45, Roma-Udinese. Partiamo quindi, come sempre, dai dati relativi al coronavirus in Italia. Sono 201 oggi i nuovi contagiati, in aumento rispetto a ieri, quando erano stati invece 187. Il numero totale dei casi sale così a 240.961. Le vittime nelle ultime 24 ore sono invece 30, in aumento rispetto alle 21 di ieri. I morti per coronavirus salgono così, numero totale dall'inizio dell'epidemia in Italia, a 34.818, secondo i dati del Ministero della Salute. I pazienti ricoverati sono meno di 1.000. Sono 201 i nuovi casi di coronavirus nel nostro paese, la metà in Lombardia, un dato in aumento per il quarto giorno consecutivo. Mercoledì i nuovi contagi erano stati 182, nelle ultime 24 ore le vittime sono invece 30, il totale dei morti sale così a 38.818. Secondo uno studio della Fondazione Gimbe, in Italia sono quasi 30.000 gli operatori sanitari contagiati dall'inizio della pandemia, il 12% dei casi totali. A Roma è stata avviata un'indagine epidemiologica dopo che due bambini dello stesso nucleo familiare sono risultati positivi. Un centro estivo e un ristorante nel quartiere Casilino sono stati chiusi. A Codogno, primo focolaio italiano, da circa 3 settimane non si registrano invece nuovi casi. Sembrano passati 20 anni dall'inizio dell'emergenza, ma nessuno dimentica, dice il sindaco. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E arriva una doppia procedura di infrazione per l'Italia sui rimborsi ai passeggeri di viaggi cancellati proprio a causa del coronavirus. La prima di queste procedure di infrazione nei confronti di Italia e Grecia perché hanno adottato una legislazione che consente alle compagnie di offrire voucher come unica forma di rimborso invece che appunto i soldi. Inoltre i due paesi insieme ad altri 8 sono soggetti a un'altra procedura di infrazione per le norme nazionali specifiche sui viaggi tutto compreso. E per approfondire e chiarire questo tema sarà ospite qui a Effetto Notte il presidente dell'Unione Italiana Consumatori. Siamo alla politica, continua il dibattito nella maggioranza sul decreto semplificazioni. Il nodo da sciogliere in particolare resta l'articolo 2 sugli appalti, tensioni però anche nel centrodestra sull'ipotesi di un governo di unità nazionale dopo l'intervista a Repubblica di Silvio Berlusconi, e tutto questo parleremo poi nello spazio dedicato alla politica. E c'è confronto nella maggioranza anche sulle risorse europee, sul loro utilizzo resta il pressing della Germania. La Merkel dice chiudere entro l'estate. L'urgenza resta evidente, tuttavia il realismo prevale ancora sulla sorte di negoziati che si annunciano complessi in merito al maxi piano per la ripresa europeo. La cancelliera tedesca Merkel e la presidente della Commissione von der Leyen hanno virtualmente dato l'avvio al semestre di presidenza con Berlino alla guida dell'Unione, in attesa che l'8 luglio i tre leader delle istituzioni europee e la stessa Merkel si incontrino di persona a Bruxelles, quando mancheranno solo 9 giorni al cruciale vertice di metà mese. Sul fondo europeo per la ripresa sul budget settennale comunitario deve essere raggiunto entro l'estate un accordo, non so immaginare un'altra variante, ha detto la cancelliera. Per la Merkel la risposta a questa crisi deve essere una risposta poderosa che sia in grado di muovere qualcosa. E secondo la von der Leyen c'è unanimità nell'approccio che riguarda il programma Next Generation EU, ma naturalmente ci sono ancora molti dettagli da negoziare. E se il presidente dell'Europarlamento Sassoli insiste sulla necessità di un'intesa ambiziosa, il commissario agli affari economici Gentiloni frena su una riattivazione troppo fretta del patto di stabilità. Una stretta intempestiva alle spese potrebbe avere effetti negativi, dice. Questo mentre il Bundestag tedesco ha approvato la manovra straordinaria di bilancio antipandemica per il 2020, previsti oltre 200 miliardi di nuovi debiti. Sergio Nava, Radio 24, il Sole 24 Ore. E arriviamo adesso alla vicenda dei Marò, la Torre Girone, a quanto avvenne nelle acque indiane nel 2012. Il Tribunale Arbitrale Internazionale ha riconosciuto l'immunità dei due fucilieri di Marina. Non sarà l'India ma l'Italia a giudicare i due fucilieri di Marina Massimiliano Latorre e Salvatore Girone. La Farnesina ha reso noto infatti che i giudici del Tribunale Arbitrale Internazionale dell'AIA hanno riconosciuto l'immunità dei due Marò accusati di aver sparato e ucciso due pescatori indiani scambiati per pirati durante una missione nel febbraio del 2012 mentre si trovavano a bordo della nave cargo Enrica Lexi al largo del Kerala. La nave venne fatta attraccare dalle autorità indiane e i due fucilieri di Marina vennero arrestati. Ora, dopo un lungo braccio di ferro, il Tribunale Arbitrale Internazionale ha stabilito che Latorre e Girone erano funzionari dello Stato italiano, impegnati nei loro compiti e che la giurisdizione del caso Lexi spetta al nostro paese. Ma se l'India non potrà giudicarli, dovrà comunque essere risarcita perché, secondo i giudici, l'Italia ha violato la sua libertà di navigazione e dovrà ricompensarla per la perdita di vite umane subita, una decisione che solleva qualche perplessità. Stabilisce infatti un danno provocato dagli italiani senza che nessun tribunale lo abbia appurato e sul quale il collegio arbitrale non ha alcuna competenza. Adriana Fracchia, Radio 24, il Sole 24 Ore. E nel corso della puntata, come vi dicevo, ci sarà modo di entrare più nel dettaglio anche degli aspetti giuridici. L'altro caso, il caso Regeni, ne abbiamo parlato ieri, ricordate qui Effetto Notte, dopo il vertice tra magistrati italiani e magistrati egiziani, con Erasmo Palazzotto, presidente della commissione d'inchiesta parlamentare sull'omicidio Regeni. Diceva ieri appunto Palazzotto che insomma nessun risultato in realtà è stato raggiunto, e anche i genitori di Regeni ieri hanno detto che è stato un fallimento quel vertice. Oggi la notizia è che ci sono almeno altri 5 uomini appartenenti agli 007 egiziani su cui la Procura di Roma sta svolgendo accertamenti in relazione al rapimento appunto di Giulio Regeni, torturato e ucciso al Cairo nel 2016. Si tratta di 5 colleghi degli ufficiali già iscritti nel registro degli indagati dal PM Sergio Colaiocco il 4 dicembre del 2018. Ieri, vi dicevo, i genitori hanno parlato di un flop e chiedono il ritiro dell'ambasciatore italiano al Cairo. Sentiamo però che cosa aveva detto ieri Palazzotto, presidente appunto della commissione parlamentare d'inchiesta sull'omicidio, a proposito di possibili pressioni che può fare l'Italia. Io penso che il governo non possa far finta che non sia successo niente e che debba necessariamente prendere un'iniziativa molto forte nei confronti dell'Egitto, anche il ritiro dell'ambasciatore, il richiamo dell'ambasciatore per consultazioni, ma credo che la prima cosa da fare sia anche quella di porre in sede europea una questione che riguarda l'Egitto. Giulio Regeni era un cittadino europeo e non penso che questa possa essere una vicenda che riguardi solo l'Italia e di cui si occupa l'Italia, mentre l'interruzione delle nostre relazioni diplomatiche non incide sulle relazioni diplomatiche che hanno altri paesi come la Francia o anche l'Unione Europea in quanto tale. E poco fa al TG1 sentiamo che cosa ha detto il presidente della Camera Fico. Deve appartenere a tutta l'Europa. Io penso che il lavoro che bisogna fare tramite i governi europei e tramite i parlamenti deve essere molto forte e sostanziale proprio per creare una rete che possa risolvere il caso di Giulio in Egitto. E a proposito dell'incontro di ieri, questo è il commento di Fico. L'incontro tra le procure è andato malissimo. L'Egitto ha dato un vero e proprio cazzotto in faccia all'Italia, a tutti gli italiani, al nostro Stato. E bisogna avere una risposta risoluta e veloce. Ora parliamo dei problemi, questi primi giorni di luglio, di viabilità autostradale, soprattutto in Liguria, e facciamo il punto. È in corso un braccio di ferro sulle autostrade liguri tra Ministero delle Infrastrutture e Autostrade per l'Italia e ancora non è chiaro se e quando potranno essere ridotte le chiusure che da giorni bloccano il traffico. Il 3 luglio apriranno 12 delle 29 gallerie chiuse per ispezioni, ma secondo Autostrade questo non comporterà miglioramenti. Il punto chiave è lo smontaggio delle onduline, operazione necessaria per capire lo stato delle gallerie, mai effettuata negli ultimi anni e che invece è indispensabile, secondo la Procura di Genova, che indaga sul crollo della galleria Bertè del 30 dicembre scorso. Le ispezioni avviate da Autostrade a gennaio prevedevano questa operazione, ma solo entro fine anno. Invece il Ministero il 26 maggio ha chiesto ad ASPI, solo per la Liguria, di fare questi controlli entro giugno, cosa impossibile secondo Autostrade. La società assicura che i controlli saranno conclusi entro il 10 luglio, ma questo non potrà garantire subito l'apertura di due corsie per senso di marcia in tutta la Liguria. ASPI ha chiesto una proroga dei termini, trattative sono in corso, ma l'incalzare della procura non la rende probabile. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. L'Ispettorato Nazionale del Lavoro avvierà delle verifiche su oltre 1000 licenziamenti avvenuti durante il lockdown. I dati Istat di maggio intanto evidenziano l'allarme occupazione. 500.000 di occupati in meno. Arrivano i dati Istat a certificare le conseguenze dell'emergenza Covid. Da febbraio 2020 il livello di occupazione è diminuito di oltre 500.000 unità e le persone in cerca di lavoro di quasi 400.000, a fronte di un aumento degli inattivi di quasi 900.000 unità. Rispetto a un anno fa, il calo dell'occupazione si attesta a meno 2,6%, pari a 613.000 unità. I dati di maggio sottolineano che comunque con la graduale ripresa delle attività c'è un'evoluzione diversa rispetto a quella dei mesi precedenti, con una diminuzione dell'occupazione più contenuta, meno 0,4%, pari a 84.000 unità, per tre quarti donne. A maggio il tasso di disoccupazione risale al 7,8%, più 1,2 punti, e tra i giovani al 23,5%, più 2 punti. E intanto si apprende che l'Ispettorato Nazionale del Lavoro avvierà verifiche su oltre 1000 licenziamenti avvenuti durante il lockdown. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Spostiamoci all'estero. Il tema coronavirus, complice anche i numeri allarmanti, entra sempre più nella campagna elettorale americana. Il presidente Trump ci ha isolati dall'Europa, dice il democratico Biden. Stiamo mettendo il Covid sotto controllo, risponde invece la Casa Bianca, forte dei numeri più che positivi sull'occupazione. With all we go through, with all of the trials and tribulations that we read about. Donald Trump ha commentato i dati mensili sull'occupazione negli Stati Uniti. Grazie alla fine del lockdown e alle riaperture delle attività economiche, i numeri sono migliori del previsto. Gli Stati Uniti nel mese di giugno hanno aggiunto 4,8 milioni di posti di lavoro contro stime degli economisti ferme a 2,9 milioni. Gran parte delle notizie terribili che sentiamo ogni giorno sul Covid per il presidente americano sono fake news. L'America ha detto ha numeri economici incredibili e sta uscendo dalla crisi. Abbiamo spento l'incendio del virus cinese, ha detto Trump. La realtà della situazione sanitaria invece parla di un incremento preoccupante dei nuovi casi di coronavirus in Florida, Texas, California e in altri stati. Nella giornata di mercoledì, secondo i dati della Johns Hopkins University, negli Stati Uniti sono stati registrati 50.600 nuovi casi di coronavirus. Si tratta dell'aumento di malati più elevato in 24 ore dall'inizio della pandemia. Riccardo Barlam, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E adesso invece parliamo di toponomastica. Corri ragazzo laggiù, vola tra lapidi blu, corri in aiuto di tutta la gente dell'umanità. A Narni, centro medievale della provincia di Terni, una strada potrebbe essere dedicata a Gig Robot d'acciaio e chissà se succederà mai, anche se la proposta del Dipartimento Europeo Tutela Androidi fa discutere da giorni. Il sindaco di Narni, Francesco Di Rebotti, nel commentare questo tamtam mediatico che ha suscitato la petizione lanciata sul web, dice: Gig Robot è stato il personaggio che ho amato di più da bambino. Certo, un po' di leggerezza in questo periodo non fa male. Se arriverà una proposta concreta, vedremo, faremo le nostre valutazioni. Certo, non è il tema che mi preoccupa di più in questo momento. E il Dipartimento Europeo ha promosso proprio questa raccolta firme sul portale Change.org. Il Dipartimento Europeo Tutela Androidi, si legge nella presentazione, opera per un futuro di inclusione e fratellanza tra uomini e macchina e mira a creare la prima via in Europa dedicata a un robot. A decidere eventualmente sarà comunque il Consiglio Comunale di Narni. Finora sono circa 250 le firme sulla petizione. Tra i sostenitori di questa petizione, assicurano sempre dal DETA, anche personaggi dello spettacolo, imprese, associazioni, oltre a comitato organizzativo del festival Narni Comics and Games. E per chiudere, lo sport con i mondiali di sci di Cortina che si terranno nel 2021 come inizialmente programmato e non nel 2022, data ipotizzata nel corso dell'emergenza Covid. Lo ha deciso la federazione, che si è impegnata a garantire 10 milioni di franchi svizzeri nel caso di cancellazione dovuta a un eventuale ritorno della pandemia. Mentre il nostro Gig che va oggi è Dario Ricci per le partite di calcio di Serie A maschile in corso. Caro Dario. Ecco qua, ti ringrazio per il complimento, ma direi che da supereroi è quello che sta facendo l'Atalanta di Gasperini, perché inarrestabile la Dea. Siamo all'88esimo di gioco di questa gara penultima della 29esima di Serie A col Napoli, big match di giornata, e Atalanta avanti per 2-0 dopo un primo tempo in cui forse ha fatto qualcosa in più proprio la squadra di Gattuso, primo tempo condizionato anche dall'infortunio piuttosto serio al portiere partenopeo Ospina, che dopo uno scontro di gioco è stato sostituito al 30esimo dopo una lunga pausa da Meret. L'Atalanta a inizio ripresa ha trovato il bandolo della matassa, assist di Gomez al 47esimo, colpo di testa di Pasalic per l'1-0, al 56esimo il raddoppio di Gosens, che è una delle grandi conferme di questa splendida stagione dell'Atalanta, il suo nono gol stagionale. Quella che sta per arrivare sarebbe la settima vittoria di fila per gli orobici. Alle 21.45 programma della 29esima che si chiuderà con Roma-Udinese. Roberta. Grazie Dario, ci aggiorniamo dopo con Dario Ricci. Direi adesso invece di aggiornare chi sta viaggiando, in modo che tra poco possiamo cominciare ad affrontare gli argomenti in primo piano con gli ospiti, a partire dalla questione dei Marò. Per i vostri messaggi, lo sapete, pagina Facebook di Effetto Notte, alla quale potete aderire senza indugio in qualsiasi momento, oppure WhatsApp al 349-238-6666. Logica, spazio, tempo. Modul Block, l'evoluzione del magazzino. Vi presenta... Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Moltissime le notizie, cominciamo da quella che possiamo considerare la principale oggi per quanto riguarda l'Italia. Roberta Giordano naturalmente sempre a raccontarvele e ad approfondirle con gli ospiti. Sto parlando della decisione del Tribunale Internazionale dell'Aia nell'annosa vicenda dei Marò, dei due fucilieri della Marina, Massimiliano Latorre e Salvatore Girone, che sono al centro di un lungo contenzioso di 8 anni internazionale tra Italia e India. E in cui hanno anche rischiato la pena di morte. La vicenda iniziò nel febbraio del 2012, il 15 febbraio la Enrica Lexi, che era una petroliera italiana, viaggiava al largo dell'India in rotta verso l'Egitto. A bordo c'erano 34 persone, tra cui alcuni marò del reggimento San Marco, col compito di proteggere l'imbarcazione da possibili eventuali attacchi di pirati, che effettivamente in quelle acque, diciamo, è un possibile rischio. I due fucilieri avevano, pensando che ci fosse un attacco, avevano sparato a una dalla nave Enrica Lexi contro il peschereccio St. Anthony, uccidendo due pescatori indiani. E la nave poi Lexi era stata fatta entrare in porto in India. I due fucilieri avevano trascorso molti mesi di detenzione in India, di fatto agli arresti domiciliari, e poi erano rientrati in Italia rispettivamente nel settembre 2014 e poi in maggio 2016. Oggi appunto è arrivata la decisione del Tribunale Internazionale dell'Aia, che ha assegnato il processo ai due fucilieri all'Italia. Però, dice anche il Tribunale dell'Aia, Roma dovrà pagare i danni alle famiglie dei due pescatori uccisi e al capitano del peschereccio che era stato appunto bersagliato dai due marò. Quindi i giudici internazionali riconoscono l'immunità funzionale dei fucilieri di Marina per l'incidente, e l'India... All'India viene quindi precluso l'esercizio della propria giurisdizione, cioè non può l'India processare i due militari perché erano funzionari dello Stato italiano impegnati nell'esercizio delle loro funzioni. Questa è la motivazione della sentenza, ma sempre secondo il Tribunale arbitrale, appunto, l'Italia ha violato la libertà di navigazione e quindi deve procedere con questi risarcimenti. La Farnesina, il Ministero degli Esteri, precisa che l'Italia è pronta ad adempiere a quanto stabilito dal Tribunale, quindi ammette in qualche modo la colpa dell'incidente, preparandosi appunto a versare i risarcimenti. La decisione del Tribunale naturalmente è stata accolta con soddisfazione dalle autorità italiane, a partire dal Presidente della Repubblica Mattarella, il Presidente del Consiglio Conte, il Ministro degli Esteri Di Maio e naturalmente dei due marò. E intanto saluto su questo il professor Edoardo Greppi, professore ordinario di diritto internazionale all'Università di Torino. Bentornato professor Greppi. Buonasera a lei. Ricorda che parlammo già altre volte insomma, di questa lunga vicenda in varie occasioni. Quindi i due paesi, appunto Italia e India, si erano impegnati a svolgere il processo una volta che fosse arrivata la decisione a chi avesse attribuito insomma tra le due parti il Tribunale Internazionale dell'Aia. A questo punto quindi il processo deve ripartire in Italia, professor Greppi? In realtà questa decisione del Tribunale arbitrale costituito secondo le previsioni della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare era appunto volta a stabilire chi potesse esercitare la giurisdizione. Questo non significa quindi nulla in termini, non entra nel merito della questione, è una questione semplicemente di attribuzione e di riconoscimento della giurisdizione a una delle due parti. Professore, non la sentiamo benissimo. Vediamo. Molto meglio così, più libera la sua voce. Ecco. Sì, perfetto. No, dicevo, la decisione è, come lei ha detto, esclusivamente in merito a chi abbia titolo per esercitare la giurisdizione. Non è una sentenza che entra nel merito della vicenda, quindi non affronta i profili penalistici, non stabilisce di che tipo di reato si sia trattato e tantomeno stabilisce una pena. Quindi questo è semplicemente il tribunale arbitrale era chiamato semplicemente a decidere chi potesse esercitare la giurisdizione e ha stabilito con 3 voti di maggioranza e 2 contrari, gli arbitri erano 5, che la giurisdizione spetta all'Italia e che questo è correlativamente decide sempre 3 voti contro 2 che l'India non può più esercitare la sua giurisdizione penale sui due marò. Quindi è già una forma, diciamo, di sollievo per l'Italia e per i due marò, perché almeno vengono processati in Italia e non in India. Però secondo l'India, sì, prego. Anche perché lei ricorderà che a suo tempo, anche forse l'ultima volta che ne avevamo parlato, si era posta tutta anche una serie di problemi e di interrogativi relativamente al fatto che l'India aveva prefigurato addirittura giurisdizioni speciali e, come lei ha ricordato, si era addirittura adombrato che la Corte potesse comminare la pena di morte. Mm-hmm. Poi c'era stato un equivoco con le autorità italiane che credevano di aver avuto garanzie che la pena di morte non sarebbe stata comminata. Mm-hmm. E il governo indiano aveva risposto: ma noi non possiamo ovviamente garantire certo. Dal momento che la giurisdizione. Però professor Greppi, secondo India Today, il giornale dice New Delhi ha vinto perché vede riconosciuto il diritto ai risarcimenti anche se non potrà perseguire i due fucilieri di Marina. Quindi metà e metà? Ma in questi casi per adesso premetto che non abbiamo ancora il testo del lodo arbitrale, della sentenza arbitrale, non sappiamo ancora i particolari, esiste soltanto un dispositivo della sentenza che sono solo 4 paginette nelle quali si stabilisce appunto che il tribunale ha deciso che la giurisdizione spetta all'India e all'Italia, che l'India deve quindi cessare di esercitare la sua giurisdizione penale. E poi per quanto riguarda, e questo lo ha deciso invece all'unanimità il tribunale, che vi è stata violazione della convenzione di diritto del mare per quanto riguarda la libertà di navigazione del St. Anthony. E in conseguenza di questo, come lei ha ricordato, l'Italia, avendo violato la libertà di navigazione, dovrà compensare l'India per la perdita di vite umane, i danni fisici, il danno materiale all'imbarcazione e il danno morale sofferto dal comandante e dagli altri mezzi dell'equipaggio del peschereccio. Questo comporta che le parti sono invitate, sempre all'unanimità, dal Tribunale arbitrale a avviare consultazioni per raggiungere un accordo circa l'ammontare della compensazione appunto dovuta all'India, il risarcimento dovuto all'India. Questo quindi vuol dire che da adesso in avanti il governo italiano e il governo indiano dovranno mettersi intorno a un tavolo e quantificare questi risarcimenti. Insomma. Professor Greppi, però uno dei due fucilieri, Girone, ha detto sono stati 8 anni nel limbo, finalmente la libertà, dice ringrazio il tribunale arbitrale, mi ha alleggerito il cuore, vivevo costantemente con un pugno nello stomaco, adesso so di essere un uomo libero. Quindi che cosa si intende con questo? Perché lei diceva non è entrata nel merito il Tribunale internazionale, non ha detto sono innocenti o colpevoli, ma ha detto il processo, la giurisdizione spetta all'Italia, giusto? Il Tribunale arbitrale non doveva stabilire se i due sottufficiali del Reggimento San Marco avessero compiuto un reato, quale reato, e quantificare eventualmente la pena. Qui si trattava semplicemente di stabilire a quale dei due stati competesse l'esercizio della giurisdizione. Da adesso in avanti ci dovrà essere un processo, è aperto già da anni un fascicolo alla Procura della Repubblica a Roma, era stato aperto anche un fascicolo alla Procura Militare presso il Tribunale Militare di Roma, e quindi tocca alla giurisdizione italiana con le debite forme avviare un processo, e sarà quello a stabilire se i due sottufficiali siano innocenti o siano colpevoli, e se sono colpevoli di quale reato si sono resi colpevoli secondo il codice penale italiano. Dice ancora Girone, l'immunità riconosciuta dal Tribunale internazionale mostra che avevamo dunque l'immunità funzionale dal primo giorno di questa querela. L'India, dice ancora Girone, ha fatto quello che non doveva fare, limitando le nostre libertà e tenendoci anche in prigione. Ho subito una grande ingiustizia da parte degli indiani. Su che tipo di immunità, di quale tipo di immunità godessero i due sottufficiali, per adesso dal dispositivo della sentenza non si ricava. Il dispositivo della sentenza parla semplicemente di riconoscimento della immunità. Che questa fosse una piena immunità funzionale in quanto organi dello Stato, in questo senso, lo leggeremo nella decisione arbitrale. Se è stata riconosciuta in questo senso, o se invece è una immunità era riconosciuta in quanto l'Italia, in adempimento a una decisione del Consiglio di sicurezza, partecipava con proprio personale a una missione di contrasto alla pirateria, eccetera. Quindi i contorni di questa immunità non sono chiariti nel dispositivo della sentenza. Perché quello che ho visto dalle anticipazioni, professor Greppi, è che i due militari erano considerati funzionari dello Stato italiano impegnati nell'esercizio delle loro funzioni. Quindi ecco, sì. Questo l'India lo contestava fin dall'inizio, sostenendo che essendo a bordo di una nave mercantile non erano considerati militari a tutti gli effetti e quindi non potevano godere della piena immunità funzionale. L'alternativa sarebbe stata, e non è detto che appunto il Tribunale arbitrale non l'abbia impostata in questo modo, ritenere che il personale militare, ancorché a bordo di una nave mercantile, operasse nell'esercizio di funzioni che derivavano dalla decisione del Consiglio di sicurezza di avviare operazioni di contrasto alla pirateria in quelle acque. Quindi questo è ancora un pochettino indubbiamente la sentenza dice 3-2, dice la sentenza arbitrale dice che godevano di immunità, questo non c'è ombra di dubbio. E come tali, quindi, lo Stato italiano poteva legittimamente esercitare la sua pretesa punitiva, cioè avviare i propri procedimenti giudiziari. Leggo per chiudere alcune parole del legale di La Torre, che abbiamo contattato, ma che insomma non ha detto che non poteva ancora parlare. Massimo Saracino, l'avvocato, dice: confido che l'autorità giudiziaria italiana faccia piena chiarezza anche nel merito della nota vicenda. Le numerose battaglie legali e l'impegno assiduo profuso dagli organi istituzionali hanno prodotto il tanto atteso risultato. Si tratta, dice ancora il legale, di un primo ma importantissimo passo verso la soluzione definitiva di questa annosa vicenda. E vedremo insomma quali altre tappe avrà. Sì. Ma sicuramente la sentenza arbitrale chiude questa annosa vicenda, perché uno degli elementi, e forse l'elemento determinante del contenzioso, era proprio stabilire chi potesse esercitare la giurisdizione. Finalmente il Tribunale arbitrale dà una risposta a questa che era la domanda fondamentale. Con questo evidentemente e ovviamente non chiude il caso, questa sentenza arbitrale non chiude il caso, ma chiude un capitolo molto importante del caso, in quanto entrambi gli stati avanzavano pretesa di esercitare la loro giurisdizione, quindi il Tribunale doveva decidere chi dei due, non si poteva fare altro che attendere questa decisione prima di stabilire poi le modalità e i tempi con i quali affrontare la questione del merito. Chiarissimo, professor Edoardo Greppi, la ringrazio e le auguro buona grazie, serata. Grazie, dottoressa Cacciavetti. Grazie. Solita pausa di riflessione, di respiro, voi continuate con i vostri WhatsApp al 349-238-6666, c'è anche qualche problema tecnico anche stasera, però su pagina Facebook di Effetto No. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. E se state ascoltando Effetto Notte, siete al posto giusto, al momento giusto, costantemente, quindi complimenti da parte mia di Roberto Giordano nei vostri confronti, perché state ascoltando la trasmissione che ogni sera da tanto tempo, dal lunedì al venerdì dalle 21 alle 22, vi dà il quadro chiaro e esauriente della giornata, delle cose più importanti d'Italia e dall'estero, e poi gli approfondimenti, i chiarimenti insieme agli ospiti di alcuni degli argomenti principali. Adesso abbiamo appena parlato lungamente della notizia, delle notizie oggi per quanto riguarda l'Italia, cioè che il Tribunale Internazionale dell'Aia, che doveva decidere a chi attribuire la giurisdizione, quindi lo svolgimento del processo ai due Marò, ai fucilieri che furono coinvolti appunto nell'incidente a largo dell'India su una petroliera in cui morirono due pescatori, appunto uccisi dai due Marò, che pensavano di essere attaccati dai pirati, dovevano difendere questa petroliera. E il Tribunale dell'Aia ha deciso che sarà l'Italia a processarli. Quindi ci spiegava il professor Greppi, di diritto internazionale all'Università di Torino, che la giurisdizione è stata assegnata, grande soddisfazione da parte dell'Italia, però la questione non è chiusa, perché ora sarà l'Italia appunto che dovrà procedere con questo processo nei confronti dei due fucilieri. Adesso ci occupiamo invece della ampia pagina politica. Oggi ho letto i giornali, i titoli, gelo, Zingaretti e Conte. Ho detto: accidenti, ieri avevamo un appuntamento, dovevamo vederci, non siamo riusciti a vederci perché abbiamo lavorato sino a tardi, tant'è che abbiamo rinviato oggi, vi do quest'anteprima. Ho detto: com'è possibile questo gelo, che quando abbiamo preso l'appuntamento non ho saputo nulla? Niente gelo dunque, almeno secondo Conte, tra Conte e Zingaretti, anche perché diciamo è estate, fa molto caldo anche qui a Milano. Divergenze, ve l'ho raccontato in questi giorni, all'interno della maggioranza, in particolare tra PD e Movimento 5 Stelle, sul MES, cioè sull'utilizzo del meccanismo europeo di stabilità su questi fondi che arriverebbero dal MES, che sarebbero condizionati, un MES un pochino modificato, condizionati questi soldi all'utilizzo, al loro utilizzo per il sistema sanitario italiano. Quindi divergenze su questo, sulla paura dello stallo, della palude del governo, soprattutto da parte di Zingaretti, segretario del PD, che in questi giorni ha sollecitato più volte Conte dicendo basta tergiversare sia sul MES che sulle altre cose, insomma dobbiamo procedere, bisogna passare dalle parole ai fatti concreti. E poi anche divergenze sul decreto semplificazioni relativamente in particolare alle procedure per affidare gli appalti. E subito allora suono di trombe e coinvolgo in questo la nostra commentatrice in diretta da Roma, dai Palazzi Romani, Betta Fiorito. Cara Betta, bentornata. Buonasera, buonasera radioascoltatori. Insomma, una tregua armata mi sembra, no? Oggi c'è stato questo incontro di un'ora tra Conte e Zingaretti. Conte ha detto sono d'accordo con Zingaretti, però appunto dici non è pace fatta. Beh, insomma, mi sembra che ci siano ancora delle divergenze, soprattutto sul decreto semplificazioni, che Conte ha detto è il decreto, la madre di tutte le riforme. La madre, io quando poi dico la madre di tutte le battaglie, eccetera, è sempre un po' un casino. Perché insomma, succede, porta sempre male. Beh, di solito si dice il padre il sulle altre cose, padri fondatori, padri sì, costruttori, padre, c'è una volta che c'è la madre. Ecco. Le madri, i padri, insomma. Niente, i genitori dici, queste cose c'entrano poco, sono... No, il problema è un altro, che secondo me Conte ovviamente cerca di mediare, ma diciamo che questo decreto semplificazioni ha delle divergenze nella maggioranza che sono sostanziali. Allora, cerchiamo di andare sul punto di vista tecnico. Andiamo. Abbiamo un Movimento 5 Stelle o un'Italia Viva che vuole assolutamente semplificare, magari snellire gli appalti anche sotto una certa soglia per far sì che l'economia riparta, anche con dei controlli che possono essere un pochino più veloci e quindi meno controllati. E questa è Italia Viva e il Movimento 5 Stelle. Dall'altra parte nel governo però c'è il PD e l'EU che teme questa velocizzazione perché potrebbe poi far sì che si infiltrino le mafie, le organizzazioni criminali. E infatti su questo scontro politico. Sì, si continua a parlare del modello Ponte di Genova che meno di 2 anni è stato costruito, anche se adesso c'è ancora il problema di chi affidarlo, il collaudo eccetera eccetera, e quindi sentiamo Salvini per esempio dall'opposizione, il leader della Lega, che cosa dice a questo proposito. Io so che a Genova si è costruito un ponte in un anno senza tangenti, senza ritardi e senza incidenti sul lavoro grazie all'azzeramento della burocrazia. Probabilmente a qualcuno la burocrazia e la complicazione serve per giustificare il suo posto di lavoro. Sentiamo Conte come risponde sempre sul modello Genova. Io la relazione l'ho seguita, dico soltanto che il modello Genova ha funzionato, tant'è vero che, credo lo sappiate anche voi, notizia pubblica, ci sono state un paio di situazioni che sono subito intervenuti con i controlli che sono stati fatti. Adesso noi addirittura stiamo rafforzando quei controlli preventivi e repressivi. E poi Conte che dice, a proposito appunto, Betta, delle spiegazioni che facevi su quali sono i nodi ancora da sciogliere tra Conte, il PD e il Movimento 5 Stelle sul decreto semplificazioni, sentiamolo, dice che li risolveranno comunque. Sicuramente in un decreto semplificazioni ci sono degli aspetti tecnici su cui dobbiamo confrontarci. Qualche nodo politico c'è anche ovviamente, ci sono diverse sensibilità, ma ne verremo a capo, ne dobbiamo venire a capo. Quindi il problema ancora resta quello, no? Nonostante questo incontro, nonostante ci sia questa tregua armata, come dici tu Betta, però il PD teme, anche l'EU, che il fatto di diciamo lasciare le briglie troppo sciolte, quindi da una parte c'è l'estremizzazione della burocratizzazione proprio di quelle che blocca il paese, dall'altra però PD e l'EU hanno paura che si passi all'estremo opposto e che quindi i controlli non ci siano, ci siano infiltrazioni mafiose eccetera eccetera, no? Dicevi. Ma anche sul condono edilizio, anche sui controlli eccetera, l'EU per esempio pensava che queste cose delle deroghe, sai, delle cubature, insomma, poi potessero poi infiltrarsi potesse infiltrarsi un condono edilizio anche dentro i centri storici delle città. Qual è il problema secondo me, e qui non si dice, è il fatto che i controlli vanno fatti. Cioè, si può fare la sburocratizzazione, è necessaria, ma ci deve essere un apparato che controlli. Qual è il problema? Che tutti quanti gli apparati statali dicono no, non si può fare la sburocratizzazione, bisogna fare tutte le cose col bollo, il controbollo, eccetera, perché nessuno ha la forza di andare a controllare i cantieri. Ci sono le risorse all'interno dello Stato? Perché si può sburocratizzare, i cantieri devono andare avanti, l'ha detto anche Confindustria, l'hanno detto anche gli imprenditori. Conte ha detto oggi, noi però siamo... Dopo Zingaretti ha detto possiamo correre. Betta, siccome abbiamo ancora un minuto e mezzo, invece sulla questione centrodestra, con Berlusconi che in questa intervista Repubblica avrebbe quasi fatto pensare a essere disponibile a una maggioranza alternativa, dice probabilmente basta che sia fuori il Movimento 5 Stelle, era un po' questa l'idea, però poi ci sono state delle smentite, Salvini e Meloni non l'hanno presa molto bene. Che cosa voleva dire, traduzione in 62 secondi, Betta, delle intenzioni di Berlusconi, dell'intervista di Berlusconi? Translation. Allora, il cavaliere è sempre stato così, lui lancia il sasso e poi dice che è stato mal interpretato. Sì, lunga sì, storia. Mal interpretato. Sì. Questo è successo anche con delle registrazioni, capito? Si sentiva vero. Quindi, secondo me, lui è una... Allora, diciamo una cosa, Forza Italia in questo è molto dialogante, molto europeista con il MES, eccetera. È ovvio che si scontra con un centrodestra invece molto sovranista, quindi c'è un contrasto all'interno della stessa opposizione. Questo è il problema. Quello che ha detto Berlusconi un po' è vero, un po' è falso. Vediamo se cade il governo, vediamo se dà una mano oppure no. Ecco, a proposito di responsabili, sei stata veramente laconica, sintetica, telegrafica. Grazie cara Betta Fiorito. Ciao Betta. Grazie a voi. Un abbraccio. Ciao Betta. Ciao. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Questa è una notizia che è da approfondire, in particolare perché riguarda probabilmente molte italiane e italiani in questo momento. Cioè, l'Unione Europea ha annunciato una doppia procedura di infrazione per l'Italia sui rimborsi ai passeggeri di viaggi cancellati a causa del coronavirus. La prima è nei confronti di Italia e Grecia, di queste procedure, perché hanno adottato Italia e Grecia una legislazione che consente alle compagnie di offrire dei voucher come unica forma di rimborso a chi ha perso quel viaggio, e questo va contro, dice l'Unione Europea, il diritto dei passeggeri, che hanno il diritto di scegliere se vogliono i voucher oppure vogliono proprio i soldi. I due paesi insieme ad altri 8 poi sono soggetti a un'altra procedura di infrazione per le norme nazionali specifiche sui viaggi, tutto compreso, che consentono agli organizzatori di emettere voucher invece di rimborso di denaro per i viaggi annullati. Ne voglio parlare con il presidente dell'Unione Italiana Consumatori, Massimiliano Dona. Buonasera Dona. Buonasera a voi. Quindi, insomma, già l'Unione Europea, a tempo del coronavirus, proprio dell'emergenza, quella più grave, del lockdown, eccetera, aveva già detto che queste erano le indicazioni, che le persone dovevano poter scegliere, i consumatori, tra il voucher e i soldi, no? Era molto attesa questa procedura di infrazione, un po' se l'avevano anticipata la Vestager, la vicepresidente, se l'era lasciato sfuggire con dei giornalisti, è arrivata oggi, è un bel segnale, ma è l'ennesimo che racconta di una norma ingiusta, perché anche l'autorità antitrust italiana ha mandato una segnalazione a governo e Parlamento chiedendo di cambiare questa normativa. È ingiusta per il semplice fatto che nel caso di disdette turistiche o di viaggi, parlo per le compagnie aeree, il consumatore ha diritto di scegliere tra un prodotto, un servizio sostitutivo, oppure un voucher, oppure il denaro. È chiaro che in questo momento di difficoltà il governo ha ritenuto di dover sostenere l'industria turistica, ma lo ha fatto sulle spalle dei consumatori. Io non posso non mettermi nei panni di quella famiglia che magari quei 1.000 euro di caparra anticipata a gennaio oggi vorrebbe averli in cassa per necessità più urgenti. Un voucher non so quando lo utilizzerò, né se potrò utilizzarlo, e dunque l'Unione Europea oggi ha dato un segnale molto importante. Perché spieghiamo magari a chi non conoscesse fino in fondo il termine: il voucher è praticamente ti danno un buono, ti dicono un buono. Ecco, se esattamente ecco, puoi utilizzarlo, però diciamo, sì. Prego. Diciamo che la legislazione di emergenza ha un po' abusato di questi voucher. Il concetto è questo: invece di costringere il tour operator, ma lo hanno previsto ad esempio anche per le palestre o per i concerti annullati, invece di costringere l'operatore commerciale a rimborsare il consumatore, come sarebbe suo diritto, rimborsarlo in denaro, i voucher danno un anno di fiato, diciamo così, a quei settori. Il settore del turismo è molto importante per la nostra economia, ma ad esempio si poteva fare una cosa alla francese: in Francia il voucher dura un anno e mezzo, se però non lo riscatto alla fine di quest'anno e mezzo si trasforma automaticamente in denaro. Invece da noi è molto più severa e molto più peggiorativa per i diritti dei consumatori. Però c'è per esempio la presidente di FIAVET, che è la Federazione Italiana Associazione Imprese di Viaggio e Turismo, che dice che ha invitato a fare un netto distinguo tra la situazione dei vettori aerei, delle compagnie aeree, e quello delle agenzie di viaggio, perché dice nel settore del trasporto aereo le policy che sono state messe in campo soprattutto riguardo ai consumatori finali sono state molto spesso veramente, dice, troppo arbitrarie, mentre per le piccole e medie imprese, quindi le piccole agenzie di viaggio eccetera, che stanno soffrendo in modo gravissimo, il voucher può essere uno strumento per salvaguardare la liquidità. Ma questo è vero fino a un certo punto, o meglio, le compagnie aeree negli ultimi giorni hanno davvero avuto comportamenti gravemente scorretti, noi li abbiamo segnalati all'antitrust, è dovuta intervenire l'ENAC annunciando delle sanzioni. Di fatto oggi è possibile comprare dei voli sui siti delle compagnie aeree che sono voli virtuali, perché poche ore dopo averlo comprato la compagnia aerea te lo cancella facendo cassa, cioè ha preso dei denari, quelli del consumatore, e prova a restituire un voucher nonostante una cancellazione ad oggi non sia più giustificata dalla normativa Covid. Su questo è intervenuta l'ENAC, che è l'autorità di settore nell'ambito del volo aereo. Anche purtroppo le piccole imprese turistiche, però devo dire, non per loro colpa, loro stanno utilizzando una normativa in questo caso, quindi ha ragione la presidente di FIAVET a dire che è una situazione molto diversa, ma non è loro colpa, è colpa di una legislazione di emergenza che ha pensato di sostenere un settore che ne ha bisogno, ma usando i consumatori come ammortizzatori sociali. È molto facile da comprendere, insisto, quei 1000 euro, quei 700 euro di caparra oggi devono tornare in tasca ai consumatori. Chiarissimo, Dona. Vedremo allora adesso come reagirà, come risponderà l'Italia in questo senso. Certo. Grazie Massimiliano Dona, Presidente dell'Unione Consumatori Italiani. Grazie, buona serata. Dario Ricci, ci riporti sul campo di calcio Serie A maschile, prego. Eh sì, atterriamo sulla serata della Serie A, e direi che è un atterraggio particolarmente felice e dolce quello dell'Atalanta, che conquista la sua settima vittoria consecutiva battendo per 2-0 il Napoli nel big match di giornata. Decisive le reti al 47esimo di Pasalic e al 55esimo di Gosens. Atalanta che quindi rinsalda e a questo punto mette assolutamente in ghiaccio il suo quarto posto a quota 60 punti, e l'Inter è appena 64 lì davanti. Napoli che dice addio di fatto alle speranze di Champions League, rimane in corsa per un posto in Europa League, in corsa almeno teorica ancora per un posto in Champions resta la Roma, che è attualmente in campo all'Olimpico contro l'Udinese, una decina i minuti di gioco ormai a questo punto, e siamo ancora sullo 0-0. Roma che è attualmente a 49 punti, Atalanta a 60, quindi già una vittoria non terrebbe in scia i giallorossi, ma quantomeno lascerebbe ancora aperta l'ipotesi di un riaggancio davvero improbabile con la splendida idea di questi tempi. Grazie Dario Ricci, buon proseguimento di partita. Allora, buon divertimento. Grazie a te. Ciao caro Dario. Noi come sempre, lo sapete, ci aggiorniamo alle 22:00.